penso che il tempo per riflettere deve essere assolutamente preso. In questo momento comunque posso garantire che in Veneto la centrale nucleare non mette piede finché ci sono io. Con i carri armati come Vendola? Come ha detto no, ieri? No, guardi, i carri armati ho fatto l'obiettore di coscienza, io non so Vendola di che... No, Vendola ha detto qui il nucleare nemmeno con i carri armati. Ma guardi, io non esaspererei i toni anche perché i cittadini hanno bisogno di sapere... Però lei ha detto finché ci sono io qui c'è di centrali nucleari zero in Veneto. Posso finire? Sì. Grazie. Le dicevo, non esaspererei i toni perché poi i cittadini hanno bisogno anche di sapere di avere amministratori che diffondono messaggi di tranquillità. Carri armati sono un brutto messaggio. Dico che qui da noi non ci vengono perché comunque ci difendiamo in maniera pacifica dalla centrale. Non vogliamo la candidatura del Veneto. E come vi difendete dalla centrale? Con le manifestazioni eventualmente decidessero per il Veneto? Guardi, ci difendiamo con il contratto sociale. Rousseau ha detto che il popolo delega qualcuno a rappresentarlo. Il popolo mi ha delegato a rappresentarlo. Cioè lei si opporrebbe fisicamente anche a un'idea di centrale nucleare in Veneto? Beh, se ci venite voi a darmi una mano, sì, assolutamente. Senta, invece un'ultima cosa le voglio chiedere sulla questione del Ministero dell'Agricoltura. So che lei ormai non ha nulla a che fare con questo, ma io non parlo di agricoltura. No, lo so del Ministero. Lei ci vedrebbe bene in quel che è ancora in bilico, ancora in ballo, è incredibilmente ancora in ballo, perché è attualmente perché suo... non è più Zaia Ministro dell'Agricoltura. Ma come non è più Zaia? Non me ne ero accorto però. No, scusami, non me ne ero accorto. Ragazzi, io non vi rispondo a questa domanda, mi mettete nei guai. Allora, un leghista. No, ma sia galante. Sia galante. No, ma non voglio parlare di agricoltura, cioè dell'attuale come dire, no, tenutario del Ministero dell'Agricoltura. Tenutario è un brutto termine. È un brutto termine. Lo so, lei ha ragione. Dell'attuale, diciamo, responsabile, ecco. Ecco, ma vedrebbe bene un leghista oppure un siciliano? All'agricoltura? All'agricoltura. Io ci vedrei bene un agricoltore. Come un agricoltore? È la terza via, c'è sempre la terza via su tutto. Beh, per esempio Bossi ha detto che brigola alle mani d'agricoltore, insomma. Guardi, il Presidente del Consiglio porta il candidato designato al Capo dello Stato per il giuramento. Prima di arrivare lì, oggi noi abbiamo un ministro dell'agricoltura che c'è, quindi a me non risulta che ci siano altri movimenti da fare. No, però voglio dire, voi sulla non è che cioè non avete veti su questo romano, no? No, preferisco l'Autan. Nel senso che voi siete veramente terribili. L'Autan contro le zanzare.